Pane, burro e rock and roll, sono le 7 e 30 minuti primi. Già decollata la nostra astronave che tira dritta verso le 9 del mattino. Ba-bom. Puntata 127. Ciao Dida Pisa, non sei patetico, sei in squadra con noi. Un saluto a Oscar, contento perché gli è arrivato a casa il barattolo dell'amore, fa già parte dell'arredamento della mia nuova casa. Bravo Oscar! Stringete i denti che ce la facciamo anche oggi. Ciao burro! I topi di magazzino hanno fulminato la radio. No, come? Noi stiamo con i topi comunque, L'unica gioia del lunedì mattina, poter ascoltare Rock FM. Invece aspetta che devo dare una terribile notizia a questo amico. No, fammi ritrovare. Eccolo qui. Allora, velocemente. Di solito chiamiamo frammentari gli ascoltatori che non riescono a sentire tutto Pane, Burro e Rock and Roll. È una cosa che accade spesso, è un fenomeno che accade spesso a quest'ora della giornata, che siete in movimento, vi spostate, avete altro da fare, quindi non la sentite tutta. Il buon Marco oggi scrive contentissimo: ciao raga, oggi non sono frammentato perché vi ascolto in viaggio da Savona fino a Milano, ditemi tutte le frequenze che così vi ascolto durante tutto il viaggio. caro Marco, facciamo così, mi sa che sei frammentato anche oggi, Però fa sempre piacere che ci credete un sacco nelle frequenze di Rock FM. New Order, Blue Monday. Marco, non te la prendere, siamo con te. Però da Savona a Milano, mi sa che c'è un piccolo buco in mezzo, tipo tutto. I want. non vedo l'ora! Però lei lascia trapelare in maniera troppo evidente. Sì, 12 novembre, i compleanni di quest'oggi. E me lo permetta, me lo conceda. Che compleanni! Ma sì, diamo un'occhiata ai compleanni di oggi. Veloci, 1929, Grace Kelly, attrice statunitense, conosciuta anche come Sua Altezza Serenissima Principessa Grazia Patricia di Monaco. Un'influenza spagnoleggiante, sì, in questa roboante qualifica di Grace Kelly. Ci ricordi subito un po' di film, via. Lei sa che quando mi chiede films, sì, le viene sono fuori, posseduto buongiorno. Da Mike, buongiorno. Vada, gli dica. E allora, buongiorno a tutti, che battutona. Sì, già da sentita. Mike, buongiorno. L'aiuto io, mezzogiorno di fuoco. Mezzogiorno di cuoco. Di fuoco. Mogambo, e basta. Non la sforzi gambo, la battuta. Mogambo. Sì. Il delitto... prefetto. Si vede che improvvisa, sa? Non se l'è studiata. Il diritto perfetto, prego. E la finestra sul cortile. Ottimo! Questa l'ho azzeccata. Grazie, passiamo ad un altro compleante. Tanti auguri al mitico Charles Manson. Al perfido criminale statunitense che nasceva il 12 novembre del 34. Quello che si è fatto, si è tatuato una piccola svastica nel centro della fronte. Complimenti. Ah, sì, quello che ha combinato... Sì. Quel disastro, la casa. Un ragazzaccio. Casa di Roman Polanski. Non, certo. Non si rabbui, però. Sì, è rimasto come icona americana. Proseguiamo. Ma guardi, un'altra 45, icona. Neil Young. Yeah, cantante canadese. E grande adesso, icona. Rullo di tamburi. Squillo di trombe. Non ne vedo la necessità. Scusi, francamente. Abbiamo un altro compleanno, lo vede? No, questa era tra le notizie da togliere. No, c'era. 1974 nasce L'Ariele, io maestro, il mio compleanno. Ah, il suo compleanno, eh? Io a lei gliel'avevo fatta la festa. Gliela farò anch'io una festa. E come se le farò la festa, vedrà Ariele. Comunque, buon compleanno Ariele. Grazie. Chiamano Uriah Heep, 7 e 40 minuti primi, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Questa è Free Me. Allora occupiamoci dell'annoso problema delle luminarie natalizie. Abbiamo iniziato già da un paio di settimane a contattare il nostro tassista milanese Tino, che ci aggiorna sulle luminarie nel capoluogo meneghino. Abbiamo lanciato svariati appelli nel tentativo di trovare qualche altro aiutante di Pane, Burro, Rock and Roll per scoprire delle luminarie nelle altre città coperte dal segnale. È stata dura la ricerca, ma ce l'abbiamo fatta. Si chiama Sab, ci contatta da Firenze e guida un pullman. Ciao Sab. Buongiorno. Benvenuta a Pane, Burro, Rock and Roll. Grazie. Tu sei già sul tuo gigantesco pullman? Sì, davvero. Vogliamo dire qual è? 23. Il 23. Da dove vai a dove vai? Navarro Lozzano, Nuovo Pignone. Ok, quindi per tutti i radioascoltatori che fanno questo tragitto, andate e salutate Sab. Grazie. Gentilmente. Sei già partita? Stai partendo? Sì, già partita. Il nostro tassista quando parte chiede ai clienti se può fare l'intervista. Però tu non puoi chiedere a tutti quelli che salgono se puoi fare l'intervista. No, non lo dico proprio. Sarebbe patetico. Anzi, secondo me è meglio se non ti fai beccare. Infatti. E non deve essere bellissima la cosa. Partiamo. No. Anche Firenze sta iniziando a illuminarsi di Natale. Segnalazioni. Via Lanza, via Ultimo Sella, via Orsini. Con che cosa? 14, 23, vista stamattina di Orsini, e poi 31, 32, 3 e 34. Perdonami, che numeri stai dando? Non capisco. Fai due rubriche in un colpo solo. Mi chiedevo solo luminarie di che tipo, cioè cos'è? Stelle. Si va sul classicissimo. Sì, quindi stelle. Solo stelle. Però sta iniziando con calma quest'anno o è una mia impressione? Non lo so, ma vanno un po' sempre a rilento tutti gli anni. Un po' a rilento quest'anno. Sì. Senti, Sab, buon proseguimento di tragitto. Grazie. Vediamo se sale qualche radioascoltatore di Pane, Burro, Rock and Roll. Salutate Sab e ringraziatela per questo servizio. Grazie. Ci sentiamo presto, eh. Bene, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Ciao. Ed eccoci dunque così arrivati alla rubrica delle parole ribelli che... Eccole lì, sì. Ecco, che il DJ Ariele già più volte mi ha dato l'impressione di non apprezzare appieno. No, freak, non è che non la... Ho un po' paura del vocabolo che sceglie. Questa cosa del vocabolo ribelle mi piace molto, concettualmente sì. Ci siamo. A volte la parola è un po' sconveniente, ecco. Ma perché bisogna avere il coraggio della cultura. Il coraggio della cultura. E allora eccoci pronti, ecco là, all'appuntamento con le parole ribelli. Carta e penna, andiamo a scoprire il vocabolo, l'idioma rock di quest'oggi. Prego maestro. Che è un verbo. Penetrare. Ecco, bene, sì, vada. Dal latino penetrarum. Sì. Introduzio cum penis, penetrarum. Latino va benissimo, sì. Entrare per mezzo del fallo, sì. Che può essere di prima e o di seconda, fino alla sanzione massima, il fallo di rigore. Lei è scemo, lei è scemo. Come l'ha scoperto? Avrei tanto voluto saperlo, ora lo so. Questa non gliela perdono. No, la prego, mi dia un'altra chance. Saprò stupirla come il pirla che sono, stupirla. We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. Our dreams alone with no resistance, fading like the stars we wish to be. You know I don't mean what I just said, but my God. Little by little, the wheels of your life have slowly fallen off. Circle, Oasis, 7.52, lunedì 12 novembre, svelato allora anche giorno del mio compleanno, che carini che siete, mi sono trattenuto fino adesso perché volevo farlo svelare da freak, insomma, che era una giornata particolare, almeno per il sottoscritto, nulla di che, ma siete carinissimi. La cosa che mi ha stupito stamane è che tanti già lo sapevano che era il mio compleanno, che teneri! Mi ha fatto molto piacere, sai? Spadino, sono piccole soddisfazioni che uno si prende, vuol dire che abbiamo radioascoltatori e radioascoltatrici attente. Una sfilza di auguri che io vi rigiro a specchio, facendo gli auguri a voi là fuori per il vostro non compleanno, no? Così stiamo tutti precisi e si festeggia tutti quanti. Intanto, a proposito di gemellaggi, abbiamo un gemellaggio Milano-Firenze grazie a Paolo, che manda un bacio virtuale alla collega fiorentina. Paolo è, è sull'ATM di Milano, linea 76, quindi gemelliamo le linee dei pullman milanesi e toscane. Permettetemi di fare una tiratina d'orecchie piccolissima, un po' agli amici romagnoli, che però sono frequenze che abbiamo acquistato da poco. Devo tirare le orecchie agli amici genovesi, cioè non può non esserci segnalazione di luminari e genovesi. Tra l'altro, visto che a Milano abbiamo un tassista e a Firenze a sto punto abbiamo una pulmista, concedetemi il termine pulmista, avremmo bisogno di qualcuno che viaggia a Genova, eh? Fatevi sentire. 335-100-7777. Un saluto anche alla patente 348 che mi scrive 10 minuti fa attendendo il 5 e non riuscivo a capire che cosa volesse dire. Riscrive dopo firmandosi patente 348 ora sul 5. Quindi è un mezzo di... deve essere un pullman il 5. Un saluto agli amici del 5. Via così. Una bella tiratina d'orecchie per l'Ariele, ma tirare le orecchie a rock? Si firma Silvia? Sì, sì, penso di sì. In realtà, guarda, qui a Pane, Burro e Rock and Roll, diciamocela tutta, è tutto rock, quindi qualsiasi cosa sia. Stiamo per terminare la prima ora di diretta. Noi continueremo ad accogliervi al 335-100-7777. Volevo leggere una mail ma non faccio a tempo. Volevamo mandare in onda il nostro ragazzino di riferimento Francè. C'è stato un problema col collegamento, quindi quest'oggi ho paura che non lo sentiremo. Tra pochissimo le nostre cavie di riferimento, Rogna e Frigo, insomma. La parola d'ordine è sempre una. Restate qua. Anche c'è Freak pronto per una nuova rubrica. Aia, aia. Intanto me la gusto con voi, The Who, Substitute. You think we look pretty good together? You think my shoes are made of leather? But I'm a substitute for another guy. I look pretty tall, but my heels are high. The simple things you see are all complicated. Look pretty young, but I'm just backdated, yeah. Substitute your lies for fact. I see lies through your plastic mask. Substitute for another guy. I look pretty tall, but my heels are high. The simple Che combini? Mannaggia Frigo, guarda quanto ben di Dio. Ehi, Rugna, ma questi saranno 2 chili di marijuana? Ma dove l'hai presa? L'ho fregata agli infermieri, quegli strafatti non se ne sono nemmeno accorti. Dai Rugna, su che ci spariamo un viaggio. Appunto questo, la fai facile tu. Ma che c'è che non va? Non hai le cartine? Ma guarda là, ne ho 10 scatole piene. E allora? Ti manca l'accendino? Ne ho una dozzina anche di quelli. Ne ho preso un intero blister. E dai, allora, Rogna, spariamocela! Non possiamo, Frigo. Perché, Rogna? Non riusciamo a chiudere la cartina, vedi? Maledetti pollici opponibili! Dio, creatore di ogni cosa, perché li hai dati agli umani maledetti e non a noi topi? Pare burro vaccherò, pare burro vaccherò, mazza che figata sto programma, raga!